Silvia era diversa, bella in ogni sua follia, signore schiava della mente mia. E i selvaggi sensi, sparsi in ogni sua mania, poi sorridendo mi fuggiva via. Se amava me, io dirlo non so, certo con lei era tutto diverso per me. Bella di più, Silvia era diversa, era in ogni sinfonia, tra i peccati puri della fantasia. Quando mani aperte raccoglieva malinconie, bagnate ancora dalle mie poesie. Se amava me, io dirlo non so, certo con lei era tutto diverso per me. Cercherò